Adesso però. Bene, noi invece andiamo a ascoltare un gruppo italiano, uno dei migliori. Tu cosa ne pensi? No, fan cagare proprio. Fan cagare? Fan cagare. Sì, no, non penso. Comunque che vedremo il 6 dicembre al CSA Tordoni di Cremona. Che vedremo il 6 dicembre al CSA Tordoni di Cremona. Potere nelle strade. Va bene, dai. Potere nelle strade. Bastardi senza nome. Fan cagare. Bastardi senza nome. Fan cagare. Adesso però mi arrabbio. Bastardi senza nome. Fan cagare. Adesso però. Perché t'arrabbi? Va bene, dai. Perché t'arrabbi? Potere nelle strade. Adesso però. Bastardi senza nome. Adesso però mi arrabbio. Fan cagare. Vai. Va bene, dai. Vai. Fan cagare. Potere nelle strade. Sei sicuramente uno dei migliori dedicato a Gigi, naturalmente. Sempre sto Gigi. Sei sicuramente uno dei migliori dedicato a Gigi, naturalmente. Sempre sto Gigi. Vai. Perché t'arrabbi? Fan cagare. Bastardi senza nome. Vai. Perché t'arrabbi? Fan cagare. Bastardi senza nome. Noi vecchio. Un vecchio voi. Noi vecchio. Mi arrabbio. Noi vecchio. Un vecchio voi. Perché t'arrabbi? Va bene, dai. Bastardi senza nome. Potere nelle strade. Bastardi senza nome. Potere nelle strade. Bastardi senza nome. Uno dei migliori. Bastardi senza nome. Bastardi senza nome. Potere nelle strade. Bastardi senza nome. Adesso però. Noi vecchio. Fan cagare. Bastardi senza nome. Adesso però. Va bene, dai. Sono perdonato? Sei perdonato. Ti vogliamo bene. Esattamente, esattamente. Fan cagare. Mi arrabbio. Perché t'arrabbi? Va bene, dai. Vecchio voi. Potere nelle strade. Noi vecchio. Bastardi senza nome.